Buonasera, allora darei inizio, faccio una piccola introduzione come al solito delle nostre iniziative, delle nostre serate, che mi sono dovuta staccare il manifesto perché mi piace troppo questa iniziativa che è iniziata il 3 di ottobre e va avanti fino a dicembre, quindi ci tenevo a farvi vedere insomma che siamo a metà del tragitto. Ci eravamo trovati il 3 ottobre davanti all'università, c'era stato un bellissimo giro per la città, scoprendo tante cose che forse in alcuni casi erano note, in altri anche no, e quindi è stato interessante. Poi ci siamo ritrovati in questa sala il 9 di ottobre, poi chiaramente sono state coinvolte anche altre istituzioni. Ci ritroviamo oggi qui al Centro Trevi con Paolo Canepele dell'Università di Udine e anche del Film Museum di Vienna e con Francesca Brunet del Centro di Competenze di Studi di Storia Regionale Università di Bolzano, e il tema questa sera sarà appunto la povertà e il vagabondaggio nell'arte sudtirolese, quindi ci saranno anche dei contributi visivi e soprattutto sarà molto interessante affrontare questo tema anche in una prospettiva, in un'ottica completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Quindi ringrazio tantissimo i nostri ospiti, ringrazio voi di essere qui con noi e ricordo anche i prossimi appuntamenti che trovate anche su questo manifesto. Il prossimo che sarà qui al Centro Trevi è il 27 di novembre con Paola Trevisan e la persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista. Vi racconto brevemente anche i prossimi appuntamenti della biblioteca, che saranno mercoledì 15 novembre con con la nostra officina del pensiero. Rosetta Infelice Fronza e Bruna Maria Dal Lago Veneri ci parleranno di luce e ombra. Invece il 22 di novembre saremo in questa sala con il libro Il leader, Adolf Hitler, la manipolazione, il consenso, il potere, un libro di Franco Jabez con Giorgio Mezzalira e Alessandro Romanello. E infine il 20 di novembre, sempre qui in questa sala, I greci e noi, con Maurizio Giangiulio, Giorgia Proietti e Andrea Bonoldi dell'Università di Trento. Quindi proseguiamo con questo percorso storico dedicato anche ai docenti delle nostre scuole che possono ricevere i crediti se lo frequentano. Io vi ringrazio, vi cedo subito la parola, ringrazio ancora tantissimo i nostri ospiti e vi invito a tornare qui da noi alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Buona serata. Grazie. Grazie. E grazie anche da parte mia, grazie alla direttrice Valeria Trevisan e alla biblioteca Claudia Augusta per la gentile ospitalità e anche per la coorganizzazione di questo quinto appuntamento del ciclo di conferenze Storie di mobilità, marginalità e repressione tra passato e presente, cinema e arte, organizzato dal Centro di Competenza Storia Regionale della Libera Università di Bolzano. E come chi di voi ha già assistito da qualcuno degli appuntamenti trascorsi sa, si tratta appunto di un ciclo di conferenze che, grazie alla partecipazione e alla competenza di esperti ed esperte internazionali, vuole proporre appunto alcuni affondi su storie di persone mobili, persone marginali, marginalizzate, andando specialmente ad indagare le connessioni tra mobilità, povertà e marginalità sociale. Il sottotitolo del ciclo di iniziative tra passato e presente, cinema e arte, sta proprio a sottolineare, da un lato, come gli argomenti che vengono di volta in volta affrontati dai relatori e dalle relatrici sono appunto indagati specialmente in chiave storica, ma hanno delle chiare implicazioni nella nostra attualità. Pensiamo a quanto appunto presenti, quanto attuali siano i fenomeni della povertà, della mobilità e anche questa, diciamo, combinazione, no, tra i due fenomeni, povertà e mobilità. Quanto abbiano voluto dire per le società del passato e quanto vogliano tuttora dire nel nostro presente. e dall'altra parte il sottotitolo va, diciamo, a segnalare come queste storie, appunto storie di mobilità, marginalità e repressione, vengono, sono state e verranno presentate attraverso, diciamo, varie forme di comunicazione, con varie chiavi di lettura, varie prospettive, anche con l'utilizzo di fonti diverse, no? E quindi il ciclo comprende conferenze, ma anche, ad esempio, ha previsto, come ha ricordato la direttrice Valeria Trevisan, una visita guidata, comprenderà due serate cinematografiche, il prossimo appuntamento sarà appunto una serata cinematografica con discussione che avrà luogo la prossima settimana, il mercoledì 22 novembre al Film Club di Bolzano. Ecco, questa varietà di fonti, questa varietà di mezzi di comunicazione, fonti che appunto sono utili per la storia sociale, la vedremo, questa moltiplicità la vedremo bene anche con la conferenza di Paolo Canepele, che è l'ospite di oggi, che ci farà avvicinare al tema della povertà e della mobilità delle persone povere nella nostra provincia con un approccio visuale, no? Quindi da una prospettiva visuale attraverso le fonti iconografiche, attraverso l'arte, la rappresentazione artistica. Sono particolarmente grata a Paolo Canepele, e non solo per aver accettato l'invito a riprendere dei temi che ha indagato in modo molto approfondito tempo fa e per essere venuto apposta da Vienna per parlarcene, ma anche perché lui è l'autore di una delle due immagini che ho utilizzato per il manifesto di questa iniziativa, quella alla vostra sinistra, no? Questa immagine notturna di un gruppo di vagabondi, di viandanti sotto un cielo stellato, un'immagine che a mio avviso è molto, molto bella, molto poetica, forse un po' malinconica, e che dà anche bene l'idea del, chiamiamolo, alone di mistero, no? Attorno a queste figure oscillanti, difficili anche da etichettare, da collocare, che erano le persone mobili. Vado subito a presentare il nostro relatore per non rubargli ulteriore tempo. Paolo Canepele si è dottorato in studi artistici e culturali presso l'Università di Linz, è stato curatore dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni al Film Archiv Austria ed è stato dirigente responsabile della biblioteca, archivio fotografico e grafico della Cineteca di Bologna. Dal 2004 al 2018 è stato il responsabile di tutte le collezioni del Film Museum di Vienna, istituzione per la quale ora cura le collezioni non filmiche. È docente di archivi e fonti cinematografiche all'Università di Udine. Numerosissimi sono i suoi studi sulla storia dello spettacolo cinematografico, sulla censura, gli home movies, la storia locale del cinema, e tra questi ultimi studi vorrei ricordare almeno alcune delle sue molte pubblicazioni che riguardano più strettamente la nostra regione, ad esempio le monografie Fra luce e ombre, intrattenimento e propaganda sugli schermi cinematografici di Bolzano, 1919-1945 con Annalisa Rigon, oppure Alto Adige, guida ai luoghi del cinema, inizi lo spettacolo, storia del cinematografo a Trento, 1896-1918, il Tirolo in pellicola, film tirolesi dalle origini al 1918, o il cinema a Bressanone, 1896-1918. La sua ultima monografia è questa qui, del 2023, quindi recentissima, che si intitola Etica cinematografica e spirito del capitalismo, il denaro nella réclame della settima arte. Vorrei solo far notare che Paolo Canepele ha gentilmente portato diversi estratti di suoi lavori, di suoi articoli legati alla storia della nostra provincia, che sono a disposizione di chi li volesse prendere. E il titolo della sua relazione di oggi è Povertà e vagabondaggio nell'arte sudtirolese. Prego. Grazie molte. Mi sposto perché sennò sono lontano dai cercherò di essere il meno noioso possibile e per questo ho preparato tante immagini. A me piacciono le figurine. Lo scopo della mia ricerca è stato quello di collegare due tipologie di ricerca storica che in genere funzionano una indipendentemente dall'altra, e cioè la storia sociale e la storia dell'arte. E raramente queste due tematiche, questi due settori della ricerca si incontrano ad affrontare un tema comune. Il tema di questa sera, lo ha detto la gentilissima dottoressa Brunet, è la raffigurazione dei poveri e dei ceti marginali nell'arte tirolese. Il mio approccio non ha valenza estetica, io non sono uno storico dell'arte, non so giudicare se un quadro è bello o è brutto. I quadri li ho usati proprio come fonti scritte, cioè ci leggo quello che riesco a leggerci. E lo scopo è quello di vedere quale fosse l'immagine che avevano gli artisti dei poveri mentre loro realizzavano le loro opere d'arte. In questo ricadiamo nel sempre presente problema di chi scrive sui poveri. I poveri non lasciano fonti della loro vita. Sono poveri, non hanno tempo da perdere per scrivere diari. Perché Proust ha scritto 5.000 pagine dalla ricerca del tempo perduto? Perché era ricco, se lo poteva permettere. Un povero non ha tempo, non ha i soldi per i quadernini, non ha le matite. Deve sopravvivere. E quindi gli storici, tutti i tipi di storici che lavorano sui ceti marginali sono costretti a usare fonti scritte da chi i poveri li controllava, li imprigionava o li giudicava. E qualvolta, talvolta, li aiutava. Nell'infinito tipologia delle immagini esistenti nella storia dell'arte mi sono soffermato su quattro temi. Le rappresentazioni delle opere di misericordia corporale, le rappresentazioni delle elemosine fatte dai santi, quelle dei santi taumaturghi e i poveri, cosiddetti pericolosi. Prima di iniziare però è necessario capire qualcosa sul concetto di povero. Il concetto di povero non è un concetto stabile all'interno della storia, è mutato. Dal Medioevo, dove il povero era colui che non aveva poteri, o privilegi politici o giuridici, e pian piano questo concetto si è spostato ed il povero è diventato colui che non ha mezzi economici. E quindi i poveri vennero iniziati ad essere giudicati se erano meritevoli di essere aiutati o non meritevoli, cioè se avevano voglia di lavorare o meno, se erano abili al lavoro o non abili. E questa distinzione porta anche la necessità dell'individuare, tu sei un povero buono o sei un povero cattivo, e quindi ai poveri vennero dati dei segni distintivi, oppure degli attestati da mostrare alla polizia. Il segno, marchio di infamia per la maggioranza dei gruppi, era per i poveri invece il viatico per avere qualcosa da mangiare. Quindi un povero con il segno era un povero più fortunato di altri, perché poteva presentarsi alle elargizioni delle elemosine. In ogni caso, chi non aveva il segno dal 1500 circa non poteva più ricevere le elemosine ufficiali, e anzi i vagabondi erano cacciati nel Tirolo da gruppi di guardie armate che facevano vere e proprie retate e arrestavano chiunque non poteva dimostrare di vivere in quella zona o di essere in quella zona per transito o per lavoro, per qualsiasi altro motivo. Cacce all'uomo di questo genere vennero fatte nel Tirolo nel 1722, nel 1727, nel 1731. Quindi dal Medioevo al 500-600 i poveri hanno perso per strada, letteralmente per strada, la sacralità che avevano goduto nel periodo del Medioevo, e oramai il povero era diventato qualcuno da mettere in prigione. Se si è abbastanza facile capire come e che tipo di persona fosse il povero, e darne quindi una definizione di cosa fosse un povero, è molto più difficile invece capire quali siano le definizioni per stabilire dove inizia la povertà. Gli storici inglesi, francesi, come il Guton o l'inglese Bullen, hanno elaborato un sistema triadico a tre cerchi, dove dicono all'interno della... i poveri sono principalmente, possiamo identificarli come poveri strutturali. I poveri strutturali sono tutti quelli che non possono lavorare perché malati o invalidi o troppo vecchi. E questi sono poveri che hanno necessità continua di essere sostentati e di essere assistiti. A questo gruppo fisso di poveri se ne aggiunge poi un altro, quello dei poveri congiunturali, cioè persone che per crisi economiche, una malattia, i casi della vita che purtroppo ci sono sempre e non sono quasi mai piacevoli, scivolano nella povertà e hanno bisogno di un sostegno per un periodo più o meno lungo. E poi il terzo gruppo è quello dei salariati, piccoli imprenditori, gente che inizia a lavorare. Queste persone sono sempre alla soglia della povertà, basta che i prezzi aumentino, casualmente proprio come in questo periodo, e la gente va alla mensa dei poveri perché non ce la fa a mangiare. Questi sono poveri del gruppo dei salariati, piccoli imprenditori. Dopo aver dato queste brevissime note, una piccola informazione dal punto di vista estetico. Le immagini tirolesi che vedrete questa sera sono come quelle francesi, italiane o fiamminghe, quasi sempre raffigurate anacronisticamente in abiti contemporanei, allora contemporanei. Il perché gli artisti sceglievano questa, facevano questa scelta di dipingere le persone, i poveri, negli abiti dell'epoca? Per rendere maggiormente simpatetico, dice lo storico dell'arte, il rapporto tra chi guarda l'opera d'arte e l'immagine. Vediamo di iniziare a parlare adesso delle opere di misericordia corporale. La dottrina teologica riconosce 7 opere di misericordia corporale. Ve le riepilogo perché ormai bisogna, non le sapevo neanch'io prima di iniziare a studiare. Allora, dare da mangiare agli affamati, dare da dissetare gli assetati, ospitare i senza tetto, vestire gli ignudi, visitare i prigionieri, curare gli infermi e seppellire i morti. Queste 7 opere di misericordia sono state stilate dalla Chiesa Cattolica in base al catalogo delle opere di misericordia basato sul passo del Vangelo di San Matteo che così recita: siamo oramai alla fine dei tempi, Dio raccoglie tutte le anime e dice: venite benedetti dal Padre mio, possedete il mio regno preparato per voi dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi vestiste, fui malato e mi visitaste, fui in prigione e veniste da me. E allora i giusti che erano lì davanti dissero: ma io non t'ho mai visto, dove eri? Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti nutrimmo? Quando ti vedemmo assetato e ti demmo da bere? Quando mai ti vedemmo forestiero e ti accogliemmo, nudo ti ricoprimmo? E lui rispose: in verità vi dico, quando avete fatto ad uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. E poi dirà anche a quelli di sinistra che non avevano aiutato: e voi che non mi avete dato da mangiare, non mi avete aiutato, andrete a marcire all'inferno. Quindi la Chiesa Cattolica costruisce questo elenco delle opere di misericordia in visione del giudizio finale. Aiutate i poveri adesso, perché aiutando il poverino di oggi voi aiutate direttamente Dio, che poi alla fine dei giorni vi giudicherà. E lì verranno pesate le anime e le azioni giuste e le azioni sbagliate. E quindi questo era il meccanismo concettuale che si muove e che muove in maniera nascosta le immagini che adesso vedremo. Prima di proseguire vi faccio anche l'elenco delle 7 opere di misericordia spirituale che sono molto meno conosciute, che però invece ogni volta che rileggo sono le opere che facciamo più frequentemente durante la nostra vita. Insegnare agli ignoranti, consigliare i dubbiosi, consolare gli afflitti, correggere i peccatori, perdonare chi offende, sopportare pazientemente le persone moleste. Questo ci capita abbastanza. E poi bisognerebbe anche pregare per i vivi e per i morti. Ma se solamente fate un lavoro tipo insegnante, mamma, qualsiasi lavoro dove siete a contatto con la gente, siete sempre lì ad consigliare chi ha dei dubbi, cercate di consolare chi ha dei guai e cercate di insegnare, non fare così, fai colà. Il ciclo più importante sulla povertà in regione è indubbiamente quello della 11ª arcata del chiostro di Bressanone. È un ciclo molto complesso che raffigura più personaggi e più passi biblici, ma soprattutto è interessante, iniziamo a capire soprattutto dov'era e dov'è. È ancora visibile a Bressanone, andateci, è molto carino, e vedrete che dove c'è l'11ª arcata c'è anche una grossa porta chiusa, dove c'è adesso, o c'era, almeno anni fa, non mi ricordo quando ci sono stato l'ultima volta, una grossa statua di Cristo sofferente. Una volta quella era la porta d'ingresso del Duomo. Quindi la scelta di dipingere proprio davanti all'ingresso del Duomo, della chiesa principale della città di Bressanone, sede vescovile, tutto un ciclo dedicato all'esortazione sull'elemosina e la misericordia, era veramente una cosa voluta e carica di significato, perché da lì entravano e uscivano tutti e tutti la dovevano vedere. Sopra l'ingresso si vede questa figura in piedi, questo omone grosso che regge questo cartiglio nel quale sono trascritti dei passaggi dai sermoni di Sant'Agostino, e quindi probabilmente quello è Sant'Agostino che esorta alla carità. Di fronte a Sant'Agostino c'è illustrata la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro, che poi andrà da Abramo quando muore, questo è Abramo, qui sotto c'è il ricco Epulone, e poi si vede anche il povero Lazzaro, che è povero, un po' disperato, e le sue ferite sono leccate dai cani. Mentre, purtroppo non ho fatto la fotografia, il ricco Epulone viene morsicato dai diavoli e viene morsicato alle braccia, perché il ricco Epulone non ha dato con il braccio l'elemosina al povero Lazzaro, ed è per quello che lo morsicano sulle braccia, mentre i cani alleviano le ferite del povero Lazzaro. Vicino si vede un ritratto di Cicerone, anche lui con un cartiglio tratto da un suo testo, il De Officiis, dove dice: una mensa ospitale ove si rifocillano i poveri è una cosa grata e sacra. Di fronte a Cicerone c'è un altro dei grandi filosofi del passato, Boezio, anche lui dice: avversate dunque i vizi, esercitate le virtù, elevate l'anima e elevate umili preci al cielo. Quindi anche voi comportatevi bene e poi andrete in paradiso. E finalmente sulle vele del chiostro sono raffigurate le 6 opere di misericordia corporale. Ne manca una, anche se è descritta nel cartiglio, ed è quella del dare da bere agli assetati. Ma vedremo poi che c'è un richiamo. La prima è dare da mangiare agli affamati. Dovete scusarmi, ho fatto le foto cercando di farle il meglio che potevo, ma ero È difficile fotografare nelle chiese, è buietto lì dentro e poi te ne accorgi dopo se hai fatto gli errori. Comunque qui si vede abbastanza chiaramente i personaggi del dare da mangiare agli affamati e si vedono i benefattori, una signora che regge un grosso paniere pieno di pagnotte, il suo uomo che distribuisce le pagnotte a un gruppo di poveri senza gambe che strisciano su questi schinieri di legno, si muovono con dei piccoli bastoni di legno e accettano ovviamente questa donazione. Alle loro spalle si vede qualcuno che se ne sta andando dal gruppo e che infila il pane nella sua tasca pane. È un personaggio diverso da questi. Questi sono poveri, sono laceri, sono brutti. Mentre lui è quasi normale, indossa begli stivali, un pantalone, una mantella e un cappello. E sul cappello ci sono delle conchiglie. Costui è un pellegrino. È una persona che per espiare dei peccati si è messo in viaggio e cerca di emendare così ai suoi peccati compiuti. Il pellegrino ha ricevuto per primo il pane e questo dimostra che nel 1400, quando questo affresco è stato fatto, la datazione è tra 1390 e 1410, i pellegrini erano i primi che ricevevano l'elemosina e poi i poveri locali. E qui si vede che ancora il pellegrino, la persona che si muove, aveva uno status di maggiore valore rispetto ai poveri stanziali. Questa politica cambierà di botto intorno al 1500 e già nel 1615 il principe vescovo di Bressanone dice che i poveri pellegrini che vengono in città potranno rimanere in città di Bressanone per massimo 2 ore e riceveranno qualcosa solo se è rimasto qualcosa dopo aver distribuito ai poveri cittadini. Quindi vedete, cambia completamente l'attitudine verso chi si muoveva e a favore di quelli dei poveri stanziali e cittadini. Però questo appunto è dipinto nel 1410 e questa immagine rispecchia come era allora. Qui ho cercato di fare un ingrandimento del povero e vedete che ha queste schinieri di legno e lui striscia per terra con questo bastoncino per ricevere il pane. Quindi sono delle raffigurazioni abbastanza crude, cruente e per non dire brutali. Questa è la seconda, ospitare i forestieri, e purtroppo ha un grosso strappo che nasconde tanto, però si vedono che i pellegrini, i forestieri, sono ben vestiti, hanno la mantella, che si chiama la pellegrina, proprio perché era la mantella tipica del pellegrino. Hanno i cappelli, hanno il bastone, che si chiamava bordone, e da questo nasce ancora l'uso di dire tener bordone, ed erano in gruppo, viaggiavano in gruppo per difendersi, viaggiavano in gruppo per dimostrare che erano veramente tutti sulla strada per Santiago de Compostela oppure verso i luoghi santi di Gerusalemme oppure verso Roma. Poi bisogna visitare gli ammalati e qui si vede una donna che porta da mangiare e da bere la brocca in mano ad un ammalato e gli dà da bere. E quindi qui c'è un accenno alla opera di misericordia del dar da bere che non è tematizzata in maniera singolare e autonoma. Interessante è anche vedere che dare da mangiare e da bere sono insieme e questa è un'allusione anche all'Eucaristia. Noi mangiamo e beviamo il corpo di Cristo e così via. Quindi vedete, sono tutti echi che a una persona che andava tutte le domeniche a messa per tutta la sua vita, immediatamente potevano scaturire nella sua mente. Poi bisogna andare a visitare i carcerati e poi bisogna portare al cimitero i morti. Vediamo, questa scena è sdoppiata, viene sviluppata su due piani. Prima il trasporto del morto in una cassa che si apre perché veniva usata e riusata solamente per trasportare il defunto fino al cimitero, e poi al cimitero bisogna scavare la fossa e si mette il morto. La chiesa è dietro al cimitero, i cimiteri sono sempre vicino alle chiese, ma è anche l'obiettivo era anche quello di far vedere che anche nell'ultimo momento del trapasso, nel momento più triste, la chiesa è sempre lì con te e non sei del tutto solo. Altro particolare molto brutale è che questi due signori che stanno scavando la fossa, scavando la nuova fossa, hanno tirato fuori tibie, teschi, tavole di vecchi, di altri morti. Quindi la morte viene veramente mostrata in maniera non addolcita, non edulcorata. Non mi sono soffermato su un personaggio che c'è sempre in queste immagini e che ha un ruolo fondamentale. In tutte le immagini è sempre presente Cristo benedicente, perché come diceva San Matteo, quello che avete fatto all'ultimo degli ultimi lo avete fatto per me, e Dio è sempre lì quando voi date una monetina al povero, quando date una carezza a un bambino e quando correggete chi si sbaglia. Dio è lì e vi giudicherà in base a quello che avete fatto. Altre opere di misericordia ci sono anche a Van Doyes di Sotto, nella vecchia parrocchia. Ne ho qui tre immagini. E anche qui rivediamo e riconosciamo già i personaggi. Cristo benedicente, i poveri ignudi e la benefattrice. Qui è di nuovo aiutare i pellegrini, ospitare i forestieri. E anche questo è un pellegrino. Vedete sempre con la mantella, con il cappello, la conchiglia e il suo bastone. E Cristo benedice. Questa è un'altra, e visitare gli ammalati, è molto rovinata, ma insomma è del 1460. A Cornale, un'altra ciclo di opere di misericordia, è stato dipinto sull'arco trionfale della chiesa. La chiesa è molto piccolina, da qui c'è ci sono i fedeli, poi c'è l'arco trionfale e lì c'è l'altare con il prete e gli officianti. Quindi è veramente in una posizione fondamentale. E tutte queste prime opere di misericordia sono sempre posizionate in luoghi strategici, di fronte all'ingresso del Duomo, sull'arco trionfale, perché dovevano essere viste, volevano essere viste. Qui abbiamo sei opere. Dare da mangiare agli affamati. E anche qui riconosciamo oramai personaggi che ci sono noti. Cristo benedicente, il benefattore e colui che riceve. Dare da bere. Di nuovo qui una persona con il bastone, con un piede amputato. Il pellegrino, anche lui con il bastone, la mantella, Cristo benedicente. Dare da vestire agli ignudi. Si offrono i capi di vestiario ad una persona lacera. Visitare i carcerati e gli ammalati. In questo dipinto le due opere di misericordia sono unificate in un unico dipinto. Da quella parte visitare l'ammalato, mentre qui è il carcerato. Lo si nota solamente dal fatto che dai piedi escono da un asse, è legato, i piedi sono dentro un asse che gli impediscono i movimenti. E quest'asse ha un nome preciso, alla gogna. Nel Tirolo, secondo la legislazione d'epoca, chi veniva condannato alla gogna erano persone che erano falsari, avevano giurato il falso, questi erano i capiti di imputazione normali. E lo rivedremo di nuovo, ma forse era anche un espediente visivo molto pratico per il pittore, per far capire che quello non è un malato ma un prigioniero. Lo fai vedere legato e bloccato dalla gogna. E l'ultimo invece è quella del seppellire i morti. È un gesto molto gentile, guardate come lo depone veramente con dolcezza quasi. La pala si serve. Qui a Bolzano ci sono degli affreschi strappati dalla ex chiesa di San Maurizio, un dipinto del 1503, datato 1503. Guardate, io non dato niente, io ho letto quello che hanno scritto gli storici dell'arte e ripeto pedissequamente, non mi permetterei mai di mettere in dubbio qualcosa. Il ciclo è molto complesso e mostra in alto un Cristo nella mandorla, angeli sotto le anime del purgatorio e davanti alle anime del purgatorio calici, pani, offerte, rosari. Quindi questa immagine e poi quattro immagini di misericordia corporale. Visitare i carcerati, visitare gli ammalati, che però è rovinatissima, dare da vestire agli ignudi e dare da bere agli assetati. Vedete, anche in questa immagine si ritorna al passo di Matteo. Quello che farete voi lo vi salverà dal purgatorio, vi salverà. Quindi fate l'elemosina, donate il pane, dite le preghiere e così aiutate le persone del purgatorio, le anime che soffrono nel purgatorio, ma soprattutto salverete voi stessi. E quindi adesso vediamo dare da mangiare e da bere, vestire gli ignudi, perché c'è scritto dare da bere? No, questo è vestire gli ignudi, non è vero quello che scrivo lì sotto. La cosa interessante è se un povero lacero e senza abiti accetta dei vestiti nuovi, dimostra che lui vuole migliorare la sua posizione e non sfrutta il vestito lacero e sporco per impietosire all'elemosina. Quindi chi accetta il vestito cerca di lasciarsi alle spalle la povertà. Come scrive Bronislav Jeremek, che è uno dei più grandi storici della povertà, dice il vestito, il come erano vestiti i poveri, era uno dei più grandi segni di distinzione. Il problema è che non distingueva moltissimo. Un salariato agli inizi della carriera o che non aveva tanto da lavoro non era vestito meglio di un povero. E quindi anche se i vestiti fanno il povero, accettare dei vestiti nuovi vuol dire non volere essere più così povero. Quindi ci sono anche questi messaggi. E poi vedete anche che chi si veste indossa calzari come il benefattore e anche il viso poi si umanizza e diventa quasi simile a chi gli ha fatto del bene. Questa umanizzazione si vede anche in questa immagine dei carcerati. Questo, uno prega con le mani giunte e l'altro sembra quasi una fotocopia del disegno di Dio. Quindi si ripete sempre quel gioco. Chi lo fa, chi aiuta gli ultimi, aiuta alla fine me. E questo era visitare gli ammalati, ma è praticamente illeggibile. Adesso ci spostiamo a Villa Bassa e ci siamo fatto un salto temporale di 150 anni, quasi 200, e siamo nella chiesa ospedaliera di Villa Bassa. Lungo la chiesa, lungo la navata, ci sono sei lunette, e tre a destra e tre a sinistra, e vengono raccontate anche qui le sei opere di misericordia. È cambiato lo stile, è cambiato anche le composizioni, rimangono sempre le stesse. Si dà da mangiare, si dà da bere e così via. Però per esempio si nota qui, per esempio nel 1710, che ci sono molti più poveri di prima. Prima ne bastava uno per dire ok, quello è il povero, adesso ne disegnano 10. Che siano aumentati? Può essere anche questo un segnale di una maggiore crisi, un'espansione del pauperismo o della povertà. Vedete, sono sempre affollatissime, ci sono sempre i benefattori, ma qui di bambini ce ne sono 10 che mangiano, bevono e così via, e di adulti anche. Ospitare i forestieri, anche questa è una scena molto, molto vivace. Vestire gli ignudi e visitare gli ammalati. Chi non manca mai è sempre Cristo benedicente. Anche in questo caso lo riconoscete perché c'ha l'aureola che lo connota come tale. 50 anni dopo, un'altra chiesa ospedaliera, questa volta a Brunico, le opere di misericordia. Qui si ritorna a un gruppo molto più compatto di persone, benefattore, Cristo e il povero, ma è una donna che compie l'azione. Nelle altre più che altro erano uomini, qui invece è una figura femminile, esclusa la scena del seppellire i morti, che quello è un lavoro più che altro da uomini. Dare da bere, vestire gli ignudi, visitare gli ammalati e seppellire i morti. Ancora 200 anni dopo, e sempre in Alto Adige, Jamma Tippe Scholler ad Amtermoia decora la chiesa con le opere di misericordia. Lo stile è completamente cambiato, l'influenza del floreale c'è, si vedono tutte quelle immagini di foglie, poi le decorazioni anche. Ma soprattutto è l'ambientazione. Jamma Tippe Scholler disegna tirolesi e mostra tirolesi ricchi che aiutano tirolesi poveri. Questo è dare da mangiare. Un uomo con il Buckelkraxel dietro, accompagnato dal suo bambino, riceve un pezzo di pane. Siamo in autunno, la catasta di legna è già alta, ci si prepara per l'inverno, iniziano i mesi difficili, bisogna aiutare. Qui invece un vecchio è caduto nel bosco e un giovane boscaiolo le dà da bere. Un anziano dice a una donna con i bambini, venite dentro. Una signora dà degli abiti, si vede sullo sfondo, si vedono sullo sfondo le Dolomiti, i tipici masi. E veramente parlare di noi disegnando noi stessi, questo era l'obiettivo di Jamma Tippe Scholler. La scena della prigione è molto semplice, un uomo consola chi è in prigione e la prigione è mostrata da una finestrella con l'inferriata, ma soprattutto dai grossi massi di pietra che vi fanno vedere da qui non si esce. Un prete va a visitare gli ammalati e due contadini preparano la fossa. Non c'è più niente della brutalità medievale, eh? Qui sono due signori con il Schürzenblu che fanno il loro mestiere, non, niente crani, niente tibie, niente. Oramai insomma non si mostrano più quelle cose. L'ultimo esempio che ho trovato di rappresentazioni delle opere di misericordia corporale qui in regione è al cimitero di San Candido. È un'opera di Martin Reiner del 77 ed è la tomba di famiglia di una famiglia di San Candido. Si vedono qui sotto i prigionieri, qui è portare i defunti e così via. E sempre anche lui non si discosta, sempre al centro, fondamentale, il cardine proprio di questo agire bene è sempre la figura di Cristo benedicente. Ok, ne abbiamo viste abbastanza di poveri, ignudi, nudi, assetati e ammalati. Possiamo cercare di fare un piccolo riassunto, un riepilogo dei cambiamenti. Le più antiche sono tutte dipinte in posizioni fondamentalmente importanti, di fronte all'ingresso della chiesa, sull'arco trionfale della chiesa, molto visibili e prominenti. Dal 1700 in poi le raffigurazioni delle opere di misericordia vengono dipinte in posti meno visibili, sono più piccole, e per esempio quelle ultime di Brunico sono addirittura invisibili ad occhio nudo. Le ho fotografate col teleobiettivo, se no non si vede che è una raffigurazione. E soprattutto sono relegate in chiese ospedaliere, cioè destinate ad aiutare i poveri, non più davanti al Duomo di Bressanone, non più in una chiesa dove tutti vanno. Quindi vedete che c'è una necessità, è stato un cambiamento di posizione, grandezza e importanza, che rispecchia esattamente il cambiamento legislativo che dal 1500, 600 e 700 ha proibito la elemosina personale e individuale. Nessuno poteva dare più l'elemosina per la strada e nessuno poteva più elemosinare. I poveri andavano davanti alla chiesa e lì ricevevano l'elemosina che istituzionalmente veniva data ai poveri. Quindi non era più necessario che gli artisti convincessero il singolo a dare, perché oramai l'elemosina era diventata un fatto del potere religioso o laico che sia. E quindi questo spiega il perché le raffigurazioni delle opere di misericordia diventano più piccole, meno prominenti e più nascoste. Ok? Io spero di avervi dato un'idea e così via. Una cosa interessante è il vagabondo con la conchiglia. La conchiglia era uno dei simboli di coloro che andavano a Santiago de Compostela. Quelli che andavano a Gerusalemme invece portavano la palma ed erano detti palmieri. Quelli di Santiago erano peregrini, mentre chi andava a Roma erano detti romei. E questa è una tomba vera scavata a Piazza Walter, dove è stato trovato il corpo di un uomo, di una persona morta, che portava un coltello e una conchiglia con un buco dentro. Non so se la vedete. Conchiglia, buco. Perché se la appendeva qui davanti per far vedere che io sono veramente un pellegrino, io sono stato a Santiago, io oppure ci torno, oppure voglio andarci. Era quindi un simbolo, guardate, non datemi la caccia, sono un vero pellegrino. E poi sia stato vero o no. Ringrazio la Società Archeologica di Bressanone che mi ha dato la permesso di farvi vedere questa immagine. Che cosa possiamo capire da queste raffigurazioni? Che il povero e il ricco non possono vivere senza l'uno, senza l'altro. Perché il ricco con la sua azione dà un senso alla propria esistenza ed entra in contatto con il divino. Quindi ricco e povero sono necessari gli uni agli altri. E questo l'aveva detto anche sempre Sant'Agostino, che vi ricordate era disegnato da fronte all'ingresso della chiesa di Bressanone, che dice il ricco e il povero sono contrari, però sono l'un con l'altro necessari. Il dovere del povero è pregare e il dovere del ricco è donare. Eccola quindi, spiegata in maniera grafica, Dio entra in contatto con il benefattore aiuta il povero e il povero praticamente rimanda a Dio. Questo è il circolo virtuoso che la carità delle opere di misericordia mette in moto. I ricchi andranno in paradiso solamente se sono misericordiosi, e questa posizione quindi cerca di dare, ammorbidire un po' gli estremi tra chi è ricco e chi è povero, e in pratica addormestica anche un po' la pericolosità dei gruppi marginali che possono essere solo aiutati dalla pietà dei ricchi e da loro devono solamente accettare di essere poveri. Quindi state tutti buoni, ognuno faccia il suo e cerchiamo di non creare danni. Nelle raffigurazioni delle opere di misericordia qui in Alto Adige le abbiamo viste. Ogni scena mostra una immagine, ogni scena mostra un'opera di misericordia. Nessuno si è mai sognato da queste parti di disegnare in un unico quadro tutte le opere di misericordia, cosa che è difficile perché è complessa, tanti sono i personaggi, ma qualcuno ci riesce, ci sono dei geni che ce la fanno. E uno di questi è Caravaggio, che riesce a soprattutto dividere poi anche la sfera celeste, la sfera mondana e così via. In questa massa di persone vengono mostrate tutte le opere di misericordia, anche se sono ben nascoste. Per esempio, qui si vedono solamente i piedi del morto che viene sepolto, e poi il giovane che dà la veste a chi ha bisogno, l'altro indica vieni a dormire lì, e appunto, ma Caravaggio era Caravaggio e lui riesce in 3 metri per 2 metri e 60, non 4 metri, 2 metri e 60, a mettere tutto insieme. Ok? Era così un'idea. Domande? Sono più che altro qui per voi e non il contrario. Se no vado avanti, tira. Facciamo la fine? Così me le dimentico tutte. Elemosine fatte dai santi. L'altro gruppo, non più persone normali che danno da mangiare, non più persone che aiutano direttamente, ma i santi. Nelle raffigurazioni delle carità fatte dai santi si vede soprattutto un particolare. Il santo è grande e il povero è piccino piccino. E talvolta diventa così piccolo da scomparire per volontà non si sa bene di chi. Ok? Esempio, Santa Elisabetta dà una pagnotta di pane al poverello. La pagnotta è più grande del povero, eh? Questo è lo sfilatino, e praticamente due sfilatini fanno un povero, eh? Cioè, e già quello mostra insomma un po' come stanno cambiando i rapporti di forza. Questo è il particolare della immagine precedente. Questa invece è la chiesa di Santa Elisabetta a Vipiteno, il soffitto complesso, un ciclo pittorico, e dentro si vedono una servitrice della Santa Elisabetta che dà l'elemosina a un pellegrino. Anche questo si riconosce perché anche lui c'ha il cappello, la pellegrina e il borraccia e la tasca pane e così via. Un'altra assistente di Elisabetta dà del pane ai poveri, e poi invece Elisabetta si lascia i casi particolari e qui cura gli ammalati. Un'altra Santa Elisabetta dà l'elemosina a un povero, e qui è interessante, per la prima volta si vede che non danno cibo ma danno una monetina. La prima volta che si vede un'immagine dove l'elemosina è fatta in denaro, e da qui, dal 1730-20, quella è la forma di elemosina più mostrata, più dipinta, più affrescata. Di nuovo Santa Elisabetta che dà un'elemosina in monete del 1748. Questo dipinto non l'ho fotografato io perché è andato distrutto nel 1945 ed è per questo che è anche a bianco e nero. Brunico, chiesa ospedaliera, Santa Elisabetta dà un'elemosina in monete. Santa Elisabetta, chiesa del Clarisse, anche lei dà un'elemosina in monete. Tra gli altri santi, uno di quelli che ha più avuto tanto successo per il tema che affrontiamo questa sera è San Martino, che, come voi tutti sapete, lui era soldato, incontra per strada un povero che sta morendo di freddo, si taglia con la spada la sua mantella e gliela dona. Questo è a Bolzano, la parrocchia di Santa Maria Assunta. Questo è San Martino, Fialoscilia, e anche qui vedete il santo è grande, il povero gli arriva neanche alle gambe. Un altro San Martino, a Tesido, un altro San Martino. Questo è un rilievo a Chartres del 1518. Se non ci fate attenzione non lo vedete nemmeno il povero, che è qui. Questo è del 1764 e qui un altro, 1832. E questa è l'ultima, scultore ignoto a Verdinx. Qualcuno ha pensato bene di fregarsi il povero. Una statuetta del povero è stata rubata e non c'è più. Sembra una cosa da ridere, ma non lo è, perché vi dimostra una cosa. San Martino può esistere benissimo senza il povero, ma il povero senza San Martino non è nessuno. Quindi la raffigurazione dei poveri è sempre, sempre, sempre legata a quella del santo. È il santo che dà il senso al povero, è il santo che dà importanza al gesto. Il povero in sé non vale nulla. E infatti se lo fregano. Un esempio molto interessante è quello di questo gruppo ligneo che è conservato al museo qui di Bolzano. È un San Martino datato intorno al 1600 e il povero che è seduto lì e attende l'elemosina. Uno storico dell'arte della regione, Niccolò Rasmo, fu il primo a mettere, a scoprire, a capire, a vedere che il Cristo è completamente diverso per stile, fattura e così via dal santo. E infatti Niccolò Rasmo dice: questo è un mediocre gruppo scultoreo del XVII secolo che rappresenta San Martino, ma nessuno si era mai accorto che la figura del poverello seduto era composta segando in due la figura di una persona. E questa persona, quando è stata rimessa insieme e così via, si è offerta come statuetta del Redentore, mutila perché era danneggiata dalle intemperie, ma preziosa testimonianza di una scultura rinascimentale. Eccolo il povero, che poi non è altro che un Cristo Redentore. Questo fatto è molto sintomatico, per vi fa capire come la figura del Cristo qui venne usata per vili motivi di far presto o riusiamo una vecchia statua, però ci mostra come Cristo è il povero. Ed è proprio questa compresenza di povero nel Cristo e di Cristo nel povero che sta alla base di tutta la teoria cattolica della elemosina. Dio scende, il volere di Dio passa al santo e dal santo arriva il povero. Però alla fine Dio non è altro che il povero stesso. E chi aiuta il povero aiuta in pratica Dio. Non è solo San Martino, non è solo Santa Elisabetta che danno l'elemosina, ma ci sono una pletora di santi, ne abbiamo almeno 365 e non solo, ce ne sono tanti di più, aggiungetevi anche i beati, abbiamo un'ampia scelta di tipologie. E qui c'è San Francesco. San Francesco in un dipinto conservato a Bressanone nel convento dei Francescani, dipinto nel 1700 da un prete, da un francescano, da un pittore francescano, che mostra una scena della vita di San Francesco quando non si era ancora convertito, quindi ancora nella vita cavalleresca, di figlio ricco. E San Francesco dona i suoi vestiti ad un nobile decaduto, ed è proprio la scena che viene mostrata qui. Questo è San Lorenzo che distribuisce l'elemosina, è a Monaco ed è Michael Pacher. Qui ovviamente Michael Pacher ha un altro stile, tutta costruita per prospettiva, al centro dei punti delle linee di fuga si vedono proprio le mani del santo che toccano quelle del povero che riceve l'elemosina. questi tre inginocchiati sono coloro che hanno pagato il dipinto. Questa del 1733, di nuovo una Santa Chiara, una bambina bellina, paffutella, ben vestita, pulita, che dà l'elemosina e riceve l'elemosina. Questo è Santo Osvaldo che divide il pane tra i poveri, anche alla chiesa di Santo Osvaldo del 1870. Quindi vedete, tutti i santi si danno da fare ad aiutare i poveri. E di queste rappresentazioni, guardate che io ve ne faccio vedere alcune, ma ce ne sono veramente a caterve e anche più belle o più famose, però in ogni caso ce ne sono veramente molte. L'ultimo esempio il penultimo esempio di persone che vengono mostrate spesso nelle opere d'arte nell'area tirolese sono i cosiddetti santi taumaturghi, cioè coloro che aiutano chi soffre, è ammalato, e ha una menomazione. Qui a Bolzano, nella cappella di Castelroncolo, c'era questo affresco, questa è una stampa, un'incisione del 1894, che mostra il sepolcro di Santa Caterina, che dopo essere stata decapitata è stata portata in volo dagli angeli su un monte Sinai, e dal suo sepolcro fluivano una miscela di olio e latte che, si diceva, se ingerita, guariva da tutte le malattie. E questa è la rappresentazione. Infatti, vedete, dagli ugelli che escono dal sepolcro esce questo liquido e i poveri bevono sperando di guarire. Un altro santo che aiuta è San Valentino, che aiuta l'epilettico che giace ai suoi piedi. Oppure sempre San Valentino che guarisce un ammalato, oppure San Paolo che resuscita un bambino, questo è a Novacella, oppure San Diego che guarisce un cieco solamente toccandogli, imponendo le mani sugli occhi. Poi, se siete più importanti come santi, riuscite anche a fare delle cose più incredibili. San Pietro guarisce con la propria ombra. Questa non è un'opera del Sud Tirolo, ma è un'opera di Masaccio, che è a Firenze, e qui si vede che Pietro passa per la città e con l'ombra guarisce tutti i poveri che erano stati messi a bella posta, secondo un passo del Vangelo, sperando che lui passasse e la sua ombra li sfiorasse. Ok, così abbiamo anche una vaga idea dei poveri taumaturghi. L'ultimo gruppo che cercherò di farvi vedere è quello dei vagabondi, o cosiddetti poveri pericolosi. L'Alto Adige, il Tirolo, la zona storica del Tirolo, era zona di frontiera, è sempre stata zona di frontiera, è la nostra fortuna, e in certi momenti questa fortuna diventa un po' si trasforma in un castigo, pensate a tutti i tir che passano sull'autostrada oppure cose del genere, oppure ai poveri disperati che dopo essere riusciti a non morire nella traversata del Mediterraneo sono spiaggiati a Brennero, nel freddo di Brennero, perché a Brennero nevica anche il 15 di agosto, vestiti di una t-shirt e appoggiati ad un muro. Sono tutte cose che capitano, perché siamo gente di frontiera e noi viviamo in un posto dove si incontrano diverse frontiere. E se voi siete una persona vagante, soprattutto nel 1700 e così via, approfittavate della presenza della frontiera, perché nel 1700 la frontiera non era un muro diritto come siamo abituati noi a immaginarcela a causa della guerra fredda, della cosiddetta cortina di ferro, questa linea che divideva perfettamente l'Europa in due. No, la frontiera nel 700 era una zona grigia, non si sapeva dove iniziava una nazione, non si sapeva circa dove finiva, ma e circa era lì. E chi vuole spostarsi, e che magari era anche un po' truffaldino, sfrutta proprio questa zona grigia per muoversi, dicendo ma quelli non mi beccano perché sono più da questa parte che dall'altra, e così via. E nel 1700 di vagabondi ce n'erano tantissimi. Per esempio nel 1727 a Spinga, sopra Bressanone, venne bloccato un gruppo di donne, almeno 20, che si spostavano continuamente, percorrendo insieme grandi distanze. Erano state arrestate nel 727 tornando da Pietralba e si stavano dirigendo a Mariazell, cioè praticamente in Austria, parecchio lontano. L'anno prima erano state a Salisburgo e quindi erano andate in pellegrinaggio a Padova, il tutto a piedi, eh? Una di queste donne aveva una figlia che viveva a Mantova, mentre l'altra figlia era convalescente a Moena. Quindi vedete che il raggio d'azione di questi gruppi era veramente ampio e si muovevano veramente continuamente, usando stradine, non le strade che erano sempre controllate, muovendosi nei sentieri, attraverso i boschi, fermandosi e bivaccando nei boschi. Ma una delle descrizioni più interessanti dell'epoca è quella di un certo Zuane Cingano, cioè Zuan Cingano, Zingaro, che venne arrestato a Livinallongo dalla guardia del luogo, che si chiamava Francesco Crepaz. E purtroppo questo Zuan Cingano rimane in prigione lì per un paio di giorni e poi se la squaglia. Il principe vescovo è arrabbiatissimo con questo povero disperato che se l'ha fatto scappare e gli dice: tu sei un imbecille, dovevi starci attento, perché non l'hai messo bene in prigione? E lui dice: ma io di questo foresto e todesco da nessun conosciuto, per opera di carità gli davo da mangiare, gli davo anche la grappa, mia moglie gli dava da mangiare per dei soldi anche, non pochi, gli ho dato anche le scarpe, anzi stavo per dargli le scarpe, poi ho pensato che con le scarpe scappa veloce e allora non gliele ho date. In ogni caso gli ho dato anche le medicine, però questo infingardo Zingaro è scappato quando appena ho avuto l'occasione. E perché non l'hai inseguito? Perché me ne sono accorto tardi. E lui era scappato la notte e io, anche se l'avessi inseguito, dopo 2 ore lui era già in un'altra giurisdizione dove io non potevo più fermarlo. Quindi che senso aveva corrergli dietro? E alla fine gli dice: e anche se io avessi saputo dove andava, non c'era la neve, non potevo seguire le orme, onde se io andava per la strada di Corinto, esso poteva aver preso quella di Atene. Ed è così, i vagabondi sfruttavano, usavano questi confini poco marchiati e si spostavano, se c'era una caccia da quella parte, allora si spostavano dall'altra parte del confine, e quindi usavano a loro beneficio questa frammentazione un po' caotica che allora era invece la norma. Vediamo un po' come sono stati mostrati questi vagabondi. Queste statuette sono quasi tutte opera di artigiani ladini, artisti ladini, e sono o al Museo di Gardena o al Ferdinandeum di Innsbruck. Questa è una delle più antiche, è molto bella, e mostra un povero con un strumento musicale che qui vedete in particolare, ed è la gironda. La gironda è uno strumento a corda che si muovi così e questa suona, ed è detta comunemente viola da orbo, la viola dei ciechi, perché la suonavano principalmente ciechi, quindi poveri. Vedete, c'è questa ritorno, non è che se le inventavano le cose, le vedevano e le realizzavano poi in queste statuette. Il suo compagno invece porta un bambino in braccio e dietro ha uno strano catafalco, una gabbia per uccelli, avevo sempre pensato io all'inizio, Poi ho studiato la storia del cinema e ho scoperto che quella era una lanterna magica. La lanterna magica non è altro che un proiettore di diapositive che dal 1700 veniva usato e trasportato da questi persone che facevano spettacoli ambulanti, di paese in paese arrivavano, mettevano sul loro spettacolino, raccontavano la loro storia, ricevevano da mangiare, forse dei soldi e così via. Quindi queste persone che si muovevano avevano anche un'offerta, non solo le informazioni, perché la cosa più importante che si scambiava un tempo era quella del cosa è successo, cosa hai visto. Si dice che i vichinghi non si salutassero dicendosi come stai, cosa dicevano, novità, hai visto qualcosa di nuovo nel mondo, c'è qualcosa di interessante che devo sapere. Questa era la cosa che interessava. Chi faceva tanti viaggi portava tante notizie e loro portavano anche tante immagini. Un altro esempio di un altro ambulante con una lanterna magica sulle spalle, questo non è artigianato ladino. Qui c'è un altro vagabondo che tiene ben stretta una pingue anatra, una signora con un infante avvolto nelle... E vedete, una caratteristica tipica di queste immagini è che sono tutti scalzi o qualche volta hanno anche delle scarpe, ma il più delle volte sono scalzi. Vagabonda con fagotto, vagabonda con cappello, anche questa scalza, vagabondo con bastone, anche lui scalzo, bastone e anche lui scalzo. Ho sempre pensato che questa idea del raffigurare il vagabondo come scalzo non mi ha mai convinto personalmente, perché dicevo, come fai a camminare per chilometri e chilometri da Moena a Mariazell scalzo? Si può fare tutto, però principalmente l'avevo interpretato come un segno per fare vedere qui c'è la povertà, non ha nemmeno le scarpe. La verità deve stare nel mezzo. Sicuramente c'erano persone che non avevano nemmeno le scarpe, però dagli interrogatori di polizia, dalle descrizioni dell'epoca, si vede che quasi sempre le persone arrestate e gli arrestati avevano stivali e scarpe. Però l'artista li raffigura spesso e volentieri come scalzi, proprio per far vedere che sono poveri. Però se andate a parlare anche con le persone vecchie di un'epoca o che si ricordano, che hanno ricordi più antichi, dicevano noi contadini qui in Val Gardena andavamo sempre scalzi. Finché si poteva si andava scalzi. Tutti i bambini giocavano scalzi, erano fuori senza scarpe. Quindi bisogna sempre stare attenti a interpretare questi segni iconografici. E con ciò io direi che ho finito le forze, la voce e le informazioni e vi ringrazio prima di tutto di avermi voluto qui tra voi, secondo che siete stati qui con me e spero di aver potuto dare un minimo di qualche cosa nuova, ecco, questa è la mia speranza sempre quando cerco, ho imparato qualcosa di nuovo, è già un buon obiettivo da raggiungere, non bisogna avere grandi idee, no? Ma una piccolezza nuova l'ho imparata, sono già contento, davvero vi ringrazio della gentilezza, della disponibilità e della pazienza. Grazie a te invece, ti ringrazio moltissimo per questa relazione molto interessante dalla quale io personalmente ho imparato molto, per questa diciamo, panoramica ricchissima di immagini, mi sembra sia una relazione molto molto interessante non solo per la ricchezza di informazioni che ci hai fornito grazie al commento delle immagini, ma anche proprio dal punto di vista metodologico, no? Mi sembra che la tua relazione mostri molto molto bene, mostri in modo plastico quanto quante potenzialità abbiano le fonti iconografiche per la storia sociale, la storia delle mentalità. Vorrei subito aprire, darvi la parola se ci sono domande, commenti. Sicuramente il relatore sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande. Il relatore è a disposizione anche per regalarvi, se volete, leggervi quello che vi ho detto, è lì, è a gratis per voi, perché non le scrivo per me, a me non interessa, le faccio per gli altri, perché spero che qualcuno magari ci dica, ok, Canepa l'ha sbagliato. Benissimo, perché la conoscenza va avanti sulla mente, correggendo gli errori dei vecchi, e io oramai non è che sia più tanto giù. E dato che siete timidi, vengo io da voi e ve la parlo. Sembra di essere un imbuto. Io vengo a prendere. Bravo signore. Va bene, così sì. Faccio dal buon esempio. Non avevo visto che aveva una domanda. Ma non so se si fanno le domande. Sì. Io avrei una domanda. È sulla relazione tra la quantità di fonti iconografiche e l'importanza della tematica, cioè se nell'arco del tempo aumenta l'importanza della tematica e aumentano anche le fonti, sembrava un po'. La domanda è perfetta e come tutte le domande perfette non so rispondere. Perché per vedere una cosa del genere bisognerebbe fare un'analisi veramente completa e statistica. Quante sono le raffigurazioni in quella decade oppure in quel secolo, cosa viene raffigurato e così via, cosa che io invece non ho fatto. Io ho cercato di dare un ampio sguardo su cosa ho trovato e di cosa c'era, e non ho dietro un'università che mi ha sovvenzionato per anni, quella sarebbe una ricerca veramente da fare, e solamente una ricerca con una concreta base statistica può dare la risposta. Però la domanda ha senso e bisognerebbe lavorare per risponderla. Da quello che io le posso dire, no, non le dico niente perché direi solo cavolate, non lo so. E se cambia l'attenzione? Quello che cambia l'attenzione di sicuro, quello è certo. Però è anche difficile, perché bisogna vedere che tantissime opere d'arte sono andate distrutte. Tutta l'arte gotica, tantissima arte gotica è stata distrutta, buttata via con il barocco. Hanno rifatto tutto nell'Alto Adige, quasi tutte le chiese erano chiese antiche, più antiche, e tutto quello che era barocco e così via. Sono rimaste solamente le chiese povere, dove non hanno investito soldi, è rimasta la vecchia chiesa gotica. Ma quelle dove c'erano denari le hanno tutte rinnovate in barocco. Quindi come fai a capire quanto è stato distrutto? Ma è andato perduto tantissimo. E anche questa è una cosa che non bisogna mai dimenticare. Noi lavoriamo sempre su resti, fonti lacunose, pezzettini. La storia è fatta di briciole. Però non sono molto brava a parlare. Io vengo da un piccolo paese del Trentino e fin da piccola ho recepito sempre queste sette opere di carità corporali e mi chiedevo se i nostri vecchi, i nostri nonni, i nostri bisnonni fossero particolarmente educati religiosamente. Forse invece tutte queste opere che hanno visto, perché era molto forte la tradizione di andare in pellegrinaggio, da noi andavano quella che chiamavano Weissistong, Pietralba, andavano a Pietralba, andavano a Padova, andavano a San Giusto, a Trieste, andavano alla Madonna di Monteberico. Probabilmente, quando tornavano in valle, portavano anche queste cose che avevano visto, queste cose che avevano potuto vedere, a parte il fatto che anche da noi c'erano chiese. Ad esempio c'è la chiesa della Madonna dell'Aiuto, no? Che è a Fiera di Primiero, e quindi oggi lei è stato molto gentile, mi ha aperto gli occhi, perché io pensavo che questi nostri genitori, nonni, fossero solo educati religiosamente, invece probabilmente lo erano anche artisticamente, quindi questo solo volevo dire, non so se sono riuscita a spiegarmi. È riuscita perfettamente, ed è vero, sì, perché le immagini venivano usate proprio per comunicare questi contenuti. Le immagini erano soprattutto, queste zone montane non erano mai state ricche, insomma non erano zone, la gente era più che altro povera, la massa era povera, e quindi questa attenzione verso il povero e così via era anche causata dal non essere tanto lontani da quello che vedo, può andarmi anche peggio. E soprattutto poi la Chiesa ha usato le immagini proprio per comunicare questi contenuti, la cosiddetta Biblia Pauperum, raccontare per immagini quello che la gente analfabeta magari non poteva leggere. Quindi c'erano questi due canali, la predica e l'immagine, per educare all'aiuto, alla misericordia. Ok. Settecento, no? Il grosso del suo lavoro. Mi chiedevo se poi nell'Ottocento col Romanticismo è cambiata un po', cioè anche l'immagine del, più che del povero, del vagabondo, come è successo in altre zone, diciamo, d'Europa, no? In cui è stata rivalutata quasi, no? In certi casi questa immagine dell'uomo libero. No. Volevo sapere se c'è qualche esempio qui in zona. Allora, dal punto di vista delle immagini no, però se penso a romanticismo e immagine e personaggio di vagabondo felice, non posso che pensare al Taugenicht, le memorie di un perdigiorno, uno dei più bei libri della letteratura tedesca. Questo è figlio di un mugnaio, non vuole fare il lavoro di papà, e lui prende il suo strumento, il violino, e se ne va a Roma, si innamora di una castellana, disperato perché sa che lui non potrà mai sposarla, va in giro, perde il tempo, non piove mai, sempre il sole c'è nella sua vita, e poi ritorna indietro e scopre che questa castellana era la figlia del servo del castello e può sposarsela e finisce tutto in gloria. E questo racconto delle memorie di un perdigiorno è veramente l'epopea dell'eroe romantico, libero, senza soldi e così via, che vive d'amore. Perché quando la vita ti sorride tu devi aprire le braccia e accoglierla. È proprio questo. Poi ci sono anche delle letture molto più politicizzate di questo breve romanzo, che vi consiglio di leggere, è veramente meraviglioso, 100 pagine di lusso e di allegria anche, no, non di allegria, di leggerezza, però un'immagine di quel personaggio lì no, ma il suo autore non gli ha neanche dato un nome. Vedete com'è così evanescente. Come fai a descrivere un alito di vento, una persona libera? Difficile. Io avrei una... Prego. Interessante, perché lei parlava anche di Antarmoi in inverno, come fa uno a camminare scalzi. Io sono cresciuta a Bolzano e lì si parlava di zaccola, zoccolari, no? Che questi avevano, e ho visto adesso poco tempo fa una foto di un'immagine che avevano veramente questi zoccoli come li usavano ancora qualche anno fa in Olanda, quelli che fanno male anche già a vedere, e che li trovi ovunque, li trovi nel buddismo, ovunque. E noi dicevamo ancora zaccler o zoccolare, ancora peggio, no? Comunque non so dove mettevano questi, qua c'è il Zöckelberg, Zöckler, anche zoccolaro, no? Zoccoli. A me ogni tanto ci penso, dov'è che mettevano... Appunto, lei dice stivali, c'erano i cavalli, magari mettevano stivali, non so, in Valbadia, per dire, non lo so, o più giù a Livinalongo, però in altri posti magari mettevano altre scarpe, che sarebbe interessante, perché non si sa, no? Perché anche questo è un fattore di povertà, anche un po' di divisione in povero e ricco, ricco cosa mette. Era solo una mia così idea, adesso pensando... Questo uomo povero che viveva nel bosco, ha vissuto tutta la sua vita in quel bosco, e per tutta la sua vita non faceva altro che zoccoli. E questa persona è vissuta tra il 1780 e il 1850. Ha avuto periodi di maggiore ricchezza, di grande povertà, però lui ha campato facendo zoccoli. Di legno, era il suo mestiere, ed erano portati da tutti, e questo nella Francia del Nord tra 1780 e 1850. Quindi la stessa cosa deve essere stata qui, solo che io non ho mai trovato un'immagine tirolese di qualcuno che indossasse gli zoccoli. Però bisogna cercare. Chi... Sempre Matteo, quello che dice delle affari, Matteo 7,7 dice sempre... Chiedetevi sarà dato, bussatevi sarà aperto e cercate e troverete. È una grande verità. Bisogna andare a cercare delle immagini con gli zoccoli, qualcuno le troverà. Con il Buddha, con anche la Tuare, ci sono dei Buddha bellissimi. Chi gira lo sa in quale museo sono. E questi hanno questi zoccoli di legno, però. E io li ho visti da bambina, li ho visti in Olanda, e poi li ho visti in Asia anche. Adesso con internet si può cercare qualsiasi cosa, no? Però effettivamente qui da noi un'immagine mai vista. L'ultimo paio di zoccoli indossato l'ho visto a un camionista olandese al Brennero. Davvero, è sceso dal suo tir con gli zoccoli di legno. Ma siamo olandesi. Se non ci sono altre osservazioni, altre domande, io vi ringrazio, ringrazio di nuovo. Sì? Pensavo, perché i musicisti giravano molto nel mondo, no? Questo era un povero, ma era un musicista, quindi esisteva anche la figura del musicista povero, perché i musicisti ne hanno sofferte di tutto di più, anche quelli bravissimi a volte sono, ancora adesso in Grecia per esempio erano visti come l'ultima staccioni, per dire, una roba terribile. E questa figura di questo Taugenichts, era solo una domanda così, perché io studio musica, allora ogni tanto penso, ma sta musica porta ricchezza o porta povertà? Perché c'ha una magia, no? Bisogna chiederlo a Bob Dylan, è in tour da 40 anni e non se la passa male. Ecco, allora, grazie a tutti, grazie a Paolo Canepelle, grazie a voi per la pazienza, grazie alla Biblioteca Claudio Augusta per l'ospitalità. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì prossimo, 22 novembre, alle 20 al Film Club di Bolzano, con la proiezione del film Was mit Unku geschah. Grazie ancora e alla prossima.